tornare, tutto torna a girare, in uno strano senso di vuoto universale. Sulla mia pelle un sapore, un odore, nel vento soffiare, vedo su una barca un uomo remare, mi devo sbrigare, l'orizzonte è tutto sfocato, uno scatto confuso, un uomo deluso, a volto scuro, illuminato al sole, un uomo in fondo illuso, ha perso il motivo per continuare, ha spinto tanto, spesso ha finto, ma ha fatto il suo tempo, una tessera rotta su una spiaggia, ora cerca il suo tempo, mischiato i granelli di sabbia disperso nel vento, un fuoco arde da una parte, ma l'uomo è dall'altra, lo vede solo in lontananza, ne sente giusto in fondo la sostanza, ma non ne ha avuto esperienza, guardo il mare, il cielo e il sole, guardo ma vedo altrove, non capisco come su quest'acqua in questo giorno piove, tutto questo mentre, per un attimo il mondo smette di girare, l'uomo di pensare, il vento di soffiare, un istante, un rumore, l'orizzonte scompare, e davanti sono solo momenti, sento pronunciare un nome, guardo fuori, ancora piove, guardo il mare, l'uomo che stava a remare, si è spostato altrove, ora non c'è più il vento a soffiare, le onde hanno lasciato il posto al riflesso della luna, piena come fiero, l'uomo del suo orgoglio, dice, ho commesso uno sbaglio, dice, ne amavo tanto, ora una sigaretta accesa, cenere brucia, ma non scalda. Una luce all'orizzonte dice mi guida, ma ormai neanche più la guarda. L'uomo rimane confuso del suo sapore, già guarda il mare, ma il contorno ricorda un altro nome, una lacrima, e poi un'altra diceva non accadrà. E invece, come il suono di una conchiglia, il suo nome gli gira in testa, ora non guarda il mare, guarda l'orizzonte e si chiede cos'altro attende. Oggi piange, sa cosa pretende, la vorrebbe, non si arrende, ma sa che è troppo distante, pronuncia il suo nome sottovoce, così lei non sente, in fondo non vuole niente di ciò che in fondo è lui, uno sguardo più degli occhi, forse per paura di essere codardo, un'altra lacrima, poi più niente, il giorno nuovo porterà il suo ricordo.